Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buona domenica, ben ritrovati, penultima puntata quest'anno di Voice Anatomy. Domenica 25 sarà l'ultima, poi un best off che vi accompagnerà durante tutta l'estate e poi speriamo di ricominciare sotto braccio come queste ultime due stagioni insieme. Come sempre vi ricordo chi ci ha regalato qualcosa di importante con la sua voce e non solo. Il 18 giugno a Liverpool nel 1942 nasceva Paul McCartney, pensate. E Yesterday, che è la canzone simbolo per quanto riguarda questo grande compositore, arrangiatore, musicista, cantante, è ritenuta la canzone più reinterpretata nella storia, pensate, con oltre 3.000 versioni esistenti. E Yesterday è stata proprio confermata come la canzone più popolare del mondo, trasmessa per radio più di 7 milioni di volte nei soli Stati Uniti. E allora arriviamo a 7 milioni e una. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Sir Paul McCartney, ma oggi è la festa di un'altra grandissima signora, non è baronetto ma dovrebbe essere regina. E allora, visto che ho già i miei ospiti al mio fianco, una grandissima attrice e un grandissimo compositore, io vorrei, con una musica dolcissima, far leggere come se fosse una poesia questa bellissima canzone di questa regina della musica e della televisione. Mi sta guardando con una faccia terrificante. Eh sì, è una sorpresa, non te l'avevo detto. Gli occhiali ce l'hai, anche l'età, lo sto guardando il foglietto in questo momento. E allora, musica dolce, poi lo sapete perché chi ci segue su Facebook sa qual è l'ospite femminile. E questa grande attrice ultimamente è stata anche una suora e non solo. Adesso non con la voce da suora, ma con la voce dell'attrice che le contraddistingue in molte opere teatrali, ci leggerà e renderà merito a questa canzone, e a questa regina. Prego. Lo so, non mi perdonerai mai. No, anche perché avete fatto degli errori di scrittura, no, mi tocca correggere. Quello è internet. Cioè, già me l'avete data... È già un senza avvisarmi. No, e non te io la butto sulla siete simpatia. Beh, anche perché chi l'ha cantata è un mito. Esatto, allora fagli gli auguri, oggi è la sua festa. Auguri Raffa. Esatto. La grande Raffaella Carrà. E allora vai. Grande amica. Fammi sognare, Elena Sofia Ricci. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette, dove tu ti attormenterai. Più drammatica, ti voglio un momento duro. Ma girando la mia terra, sì, io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Ma adesso ti voglio sul ritornello, ma ti voglio bella. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore. Io sono pronta. E tu? Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città.

Elena, Stefano, io ho assistito l'altro giorno a questa bellissima conferenza stampa della presentazione di un'innovazione gigantesca nel mondo dell'arte, della musica, della danza, della multimedialità, ed è sicuramente difficile spiegarlo, bisognerebbe vederlo come tu l'hai costruito, eccetera, ma vorrei che tu ne parlassi, perché sì, è Voice Anatomy, è proprio la tua voce che vuole raccontare questo grande progetto, che sarà presto una grandissima installazione museale in musei come il MoMA di New York, eccetera, perché questa è la sua destinazione finale. E noi ce l'auguriamo, insomma. Rendering Revolution è un progetto multimediale che racchiude diverse forme d'arte, dalla pittura alla visual art, alla danza, tutto tenuto insieme dalla musica. E quindi io, non sapendo cosa fare, caro Pino, mi sono inventato questa struttura, che per il momento è virtuale, che tiene insieme tutte queste forme d'arte e accompagna lo spettatore all'interno di questo spazio virtuale per il momento, ripeto. A proposito di questo, ti interrompo un attimo, perché è virtuale, vuol dire che possiamo andare a raccogliere queste informazioni e vedere la presentazione di Rendering Revolution in internet, in un sito, Assolutamente sì, dedicato. renderingrevolution.net. Renderingrevolution.net, c'è tutto, ci sono i filmati, si possono vedere, c'è la spiegazione di come funziona, di come si sente. Ecco, guardate, dedicate veramente qualche minuto della vostra esistenza, se siete interessati a questo discorso multi. Non è soltanto un discorso di modernariato, di futuro, di cose che ci allontana sempre di più, questo digitale che allontana da noi, che siamo un po' più analogici, ma è realmente una cosa che si può toccare. Sì, è emozionante. La tecnologia è utilizzata non come una forma agglomerante e marginale, ma è proprio parte integrante di tutte le altre forme d'arte, perché oggi la scienza e la tecnologia, nella fattispecie, se usate nella maniera corretta, fanno parte delle forme d'arte, ci investono continuamente, e quindi Rendering Revolution è un sistema che ci permette di fruire di tutte queste forme d'arte contemporaneamente. Raccontamelo. Diciamo che il core, la parte nodale della questione è musicale. In pratica l'idea è di sfruttare lo spazio, Pino. Lo spazio nella musica non è utilizzato frequentemente, perché si utilizza il tempo. La musica, per spiegarsi, ha bisogno di tempo, di un principio, di uno sviluppo e di una fine. Le altre arti, le arti plastiche, la pittura, l'architettura, la scultura, hanno bisogno invece di spazio, perché tu, quando guardi un quadro, dici che bello, lo realizzi in un nanosecondo, in un attimo, non hai bisogno di tempo. La musica sì. Quindi io mi chiedevo, ma non esiste un sistema che ci permetta all'interno della musica di sfruttare lo spazio, in modo che lo spettatore, proprio spostandosi fisicamente da un punto all'altro, lo viva e cambi la partitura lui stesso, diventando interprete e regista di questa partitura? Ecco, Rendering Revolution è questo, cioè la possibilità, girando per questo spazio, di fruire di varie forme d'arte, cambiando la partitura mentre ci si sposta, perché questo quintetto di violoncelli che... Ecco, il nucleo è questo, raccontiamolo proprio fisicamente. Fisicamente è... Comunque, quando ha pensato a cose del genere, non stava bene. Cioè, pensa, senza fare uso di sostanze stupefacenti, l'ha fatto. Ma usava te, tu sei la sua sostanza stupefacente. Sì, buonanotte. Ecco, buonanotte, state urlando amore da un'ora. Allora, Stefano, quantizziamo, soprattutto fisicizziamo questa realtà, questo nucleo, sì, cioè questa stanza, sì, centrale, immaginate, questi cinque violoncelli. Esatto, immaginate che al centro di questa stanza ci sia un quintetto di violoncelli e dalla stanza registrato, certo. Dalla stanza si dipanano quattro corridoi. Alla fine di questi quattro corridoi ci sono quattro stanze con quattro opere proiettate, rappresentanti una rivoluzione, ognuno con la propria colonna sonora. E al centro questo quintetto di violoncelli ha una particolarità che lega tutto il progetto musicalmente. Che cosa succede? Che il violoncello, il componente di violoncello rivolto verso questo, uno di questi corridoi, trasmette la sua musica amplificata, perché tutto il progetto è registrato, fino alla fine del corridoio, andando a finire su un'altra partitura. Quindi la particolarità è questa. In qualsiasi momento tu ti muovi in quel corridoio, cominci a sentire poi solo quel violoncello. Sì, che va a finire su un'altra partitura. In qualsiasi momento uno attraversa entra sempre intonato. Il nocciolo della questione è che in pratica esistono quattro partiture nelle quattro sale. Queste quattro partiture sono state scritte per avere ogni singolo violoncello presente a centro sala compatibile con la loro partitura. Quindi tu, spostandoti dal centro a una di queste quattro sale, passi gradualmente, avvertendo un passaggio proprio morbido, graduale, progressivo, su un altro piano musicale, una partitura completamente differente, che però ha in comune quel violoncello e quindi rende progressivo il passaggio da un paesaggio musicale all'altro. Questo è la cosa, è come dicevi tu, Pino, è attualmente virtuale, presente sul sito www.renderingrevolution.net, ma la nostra mission è di portarla in uno spazio reale, come dicevi tu, uno spazio dedicato, museale, vero e proprio, un'installazione. Il quadro sono quattro rivoluzioni, anche quello, c'è Guernica, c'è... Esatto, ognuno rappresenta... Ma sono vivi poi quei quadri, perché la cosa che ho visto è meravigliosa. Esatto, in quel caso parlavamo di visual art, cioè i quadri sono stati reinterpretati proiezioni 3D. All'interno di queste proiezioni due danzatori meravigliosi si muovono. Elisa Barucchieri ha curato le coreografie, nonché la danza aerea, e fra l'altro è la più bella di tutti noi, perché diciamolo, c'è questa presenza femminile magnifica. Elisa, che ringrazio pubblicamente per tutto quello che ha fatto per questo progetto, si muovono all'interno di questi quadri. Revolution, rivoluzione, perché quattro quadri sono: uno è Guernica, Picasso, la rivoluzione delle rivoluzioni del 37, uno è la rivoluzione della prospettiva, una stampa di Piranesi, uno è la rivoluzione del tango, quindi danza e musica, e l'altra è la rivoluzione del cubismo, un quadro di Braque. Quindi quattro rivoluzioni differenti interpretate a tempo di colonna sonora originale, che ho scritto ovviamente per il progetto. Rendering Revolution racchiude tutto questo. Io mi auguro davvero che si possa presto realizzare in uno spazio reale, in un'installazione museale. Beh, visto le persone che hanno affollato la conferenza stampa, che non c'era soltanto io o altri amici o colleghi di Elena Sofia, c'erano personalità veramente fondamentali per quanto riguarda l'arte, la stampa, tutto, c'era qualsiasi cosa. Per cui professori d'università, non solo, si è mossa veramente. Sì, ma devo dire, Ernesto Assante, che insomma è uno dei più maggiori responsabili critici musicali che abbiamo, insieme a Castaldo, due persone brillantissime. È stato presentato poi dall'Accademia di Santa Cecilia e dal Maxi. Questo mi ha onorato, ovviamente mi onora, però avevo paura che fosse un po' troppo complesso da capire ed elitario. No. Guarda, invece l'ho capito più adesso che quando è stato bravissimo. Ho visto che la gente ha risposto di pancia, cioè proprio a senso. Senza tante spiegazioni, è una cosa da vivere. Di applauso, esatto. La gente non smetteva di applaudire. Ma no, ma guarda, sembra Disney, sembra un gioco virtuale, lo meraviglioso. È anche un gioco inteso in senso ampio, lo è la possibilità, è anche il mio amore, voglio dire, per l'arte in generale. Ho cercato di racchiudere e di trasmettere quest'amore in una forma di multimedialità contemporanea. Bene, questo siamo solo all'inizio. A tra poco con Voice Anatomy, Elena Sofia Ricci, Stefano Mainetti. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Voice Anatomy, al mio fianco Stefano Mainetti, compositore straordinario di colonne sonore, di teatro, di cinema, di fiction, di TV, di radio, anche perché questo tema è il tuo. È vero, questo qui è un per esempio, è un tema che facemmo un programma per uno spettacolo teatrale di attori che adesso non ricordo esattamente chi premiata fosse. Ditta, premiata ditta, sì, premiata, ed era Soap, un premio Soap. Era una commedia molto divertente, intitolata Soap, e io registrai, cosa che si fa molto raramente, devo dire, Pino, per spettacoli teatrali, con un'orchestra di 60 elementi. Quindi questo tema che sentite sotto è l'orchestra sinfonica della Radio Nazionale bulgara a Sofia, che sono bravissimi, sono, non è che sono eccezionali, sono andati in Bulgaria perché costano meno. No, sono eccezionali, sono bravissimi, loro ci ascoltano, lo sai, Pino? Sì, sono sicuro. E li salutiamo, quindi sono sempre molto grato alla loro arte, alla loro sapienza. Lì ci incide Morricone, Pino Donaggio, tutti Nassi, ci siamo Grandi, da tutto il mondo. Ci si va, bravissimi. Ed era l'orchestra sinfonica proprio della Radio di Sofia che ha registrato questa. Questo era soltanto l'intro di questo premio. Questa sigla che è diventata. Me la mandi un attimo, senza la voce, la sigla, ce l'abbiamo solo il sottofondo? Eccola. Sì, era il premio che vinceva la miglior soap opera dell'anno.

Franco rispose: mamma, come sono vecchia! E così, insomma, vabbè. Grande Franco, carino, che sì, sta sì. benissimo, no? Ultra novantenne, so, ormai. Sì, sì, sì. Peccato, un peccato. Un bel genio, un bel genio. Sì, ma, di grande sì. classe. È bello che l'hai respirato insieme con un film solo, tu, questi geni, Tre, anche Walter Chiari, La Magnani, non, francamente io non l'ho amata molto, non era molto carina con i bambini, perché eravamo tanti, non era molto carina perché lei aveva questo problema con il figliolo, sì. quindi diciamo che ci viveva ma molto a distanza, invece chi mi adorava era Walter Chiari, sì. chi mi adorava era Walter Chiari. Che uomo, eh? Simpatico, buono, ogni tanto mi prendeva in braccio, carinissimo, molto sì, dolce. Abbiamo parlato tante volte attraverso questi microfoni, questi grandi, sì. che dovrebbero essere ricordati ogni giorno. Ogni giorno dovrebbe minuto. Essere dedicato a questi grandi, e non soltanto, come ho detto poco fa, anche Elena Sofia Ricci attraverso Teche Teche o la Rai, che ricorda ogni tanto qualcosa. Ma proprio noi siamo quelli che siamo stati, dipendiamo i nostri genitori, chi ci ha preceduto, bisognerebbe sempre mai rinnegare il passato, è l'errore più grande che si possa commettere. Quanto sono stati decisivi i tuoi genitori nella tua carriera, Sonia? Ma mio padre no, perché non ne voleva sapere, ma mia madre è stata decisiva. Mia madre era una cantante di Radio Bari, all'epoca degli americani, ed era l'unica alla quale permettessero di cantare in inglese, perché diceva che è un'ottima pronuncia, cosa che poi non mi ha tramandato, perché io odio l'inglese e non lo parlo e non lo voglio parlare. No. Vabbè, è una cosa mia, non lo so, sarà perché sono nata sotto gli americani. Allora non, lo so. Non mangio gomme americane, non fumo sigarette americane. Va bene, no, scherzo. No, vabbè. E fu lei che mi portò. Dice: Sonia farà una grande carriera, questo l'ha sempre detto. Grande carriera non è successo, però insomma. Beh, insomma, comunque ho vissuto tanti anni con questo mestiere. Beh, quello sicuramente aveva ragione. Aveva ragione, ma sì. hai fatto una carriera trasversale sì. veramente importante. Ora voglio sentirmi il tuo pezzo musicale nel prossimo blocco, perché manca un minuto e mezzo a fine questo. Il mio pezzo musicale, dove l'hai preso? L'abbiamo trovato. Oh Madonna. E adesso non so la pronuncia esatta, Entre il Gentio. Entre il Gentio. Eccolo, gentio, vedi? Sì, anch'io sì, so sì. per le lingue, so un po' un disastro. In inglese parlo con le fasi idiomatiche che scopro nei film. Vivo con io quelle. Non sopporto, è più forte. Infatti, vedo un nome inglese e chiamato un altro e così sì, sì. Ah, sì, non pronunci proprio anche nei no, film no, che è una difficoltà abnorme per me sì, cosa che non ho con lo spagnolo naturalmente. Beh, ma okay. con il francese, con il tedesco, niente, mi viene tutto facile le pronunce, con l'inglese, con no. l'inglese. Allora, ci deve essere qualcosa nel mio passato sì, un inglese che ha approfittato di te in qualche qualcosa. Modo o sono figlia di un americano, perché sono del 45, io luglio del 45 a Bari, perché c'erano gli americani, c'è tutto. È successo qualcosa di lì. Non hai chiesto bene a mamma approfondimento, chi assomigliavi a mamma o a papà? Il ritratto di mia madre, di mia madre, di tua madre, questo non toglie però sì, sì. il dubbio, no perché... no, non me lo leverà mai nessuno, esatto, sai, sì, quel sì. momento di grande gioia, felicità, ci hanno liberato. Sì, sì, sì. Vabbè, ma non vogliamo indagare su no, non indaghiamo. Una catena del DNA, lasciamola da una parte. Esatto, l'importante esatto. ci sei tu. Allora, signori miei, rimanete in ascolto, perché il nostro appuntamento, la nostra passeggiata con Sonia Scotti è appena cominciata. A tra poco. Sanatomi. Bentornati, signori, voi sanatomi, al mio fianco la voce delle voci, Sonia Scotti, con un percorso artistico veramente, no, 360, 420 gradi. Vista l'età. Stavamo parlando durante la pausa della radio, è cominciato con la radio, una cosa che... Sì, Radio Lazio. Radio Lazio. Sì. E da lì hai capito perfettamente che il veicolo migliore è la radio. La radio, la radio. La evocativa, radio. È magica. Sì, e poi non si ha idea di quante persone ascoltino la radio. No. Sono proprio tante, tante, tante, ed è bellissimo entrare con educazione sì. nella casa delle persone, è bellissimo. E gli sceneggiati di sceneggiati, indimenticabili. Io provare quest'altro anno in una nuova stagione qui a Voice Anatomy a cercare di farlo. Almeno. Presente, presente. Sì, no, beh, Sonia, ci mancherebbe, io farò l'appello a Scotti, ci arrivo prima e poi ricomincio da là, casomai. Ti ringrazio molto. Senti, io mi sentirei intanto un altro bel doppiaggio della tua vita artistica, che parlavamo prima di Judi Dench, 007. Comincia, ma assomigliate pure, sto capello bianco, allora, in un sì, certo infatti, modo, questa fisicità importante. In un inglese che io non so ripetere, sì, ho incontrato, credo, al quinto o sesto film, i produttori. E mi disse, you are not the voice of Judi Dench, you are Judi Dench. Beh, sì. Io dentro di me dicevo, vabbè, con 20 centimetri di più, perché lei è piccola, piccola. Lei è piccolina, piccola. Sì. Sì, sì, sì. E sì, tu sei una bella donnona. Beh, vabbè, però, dai, ci sta, insomma, tu, il tuo percorso è totale. Grandissima per cui quando attrice, uno, piccola, quando... ma... quando uno fa l'attore, non fa il doppiatore, fa l'attore e mette a disposizione. Allora sentiamocela, Judi Dench in corpo e voce di Sonia Scotti, 007 Skyfall. Presidente, ministri, oggi ho sentito ripetere quanto irrilevante sia diventato il mio dipartimento. Perché ci servono gli agenti, la sezione 00, non è tutto antiquato? È evidente che io vedo un mondo diverso dal vostro. E la verità è che quello che vedo mi spaventa molto. Sono spaventata perché non sappiamo più chi sono i nostri nemici. Non sono più rintracciabili, non sono nazioni. Sono individui. Guardatevi intorno, di chi avete paura? Vedete una faccia, una divisa, una bandiera? No. Il nostro mondo non è più trasparente ora, è più opaco. È nelle ombre. È lì che dobbiamo combattere. Quindi prima di definirci irrilevanti dovete chiedervi quanto vi sentite al sicuro. Eccoci, no, stavo chiedendo una cosa. Beh, bellissimo questo monologo Judi Dench, meraviglioso davvero. Peccato. Beh, che poi è morta. Sì, ma nel film. Nel film è morta. Un attimo, sono spaventato di conoscere Judi Dench. Con Judi Dench c'è un mistero assoluto, che è questo. Io l'ho fatta in tutti i film di 007 fino alla sua morte come personaggio, ma in nessun film. Ma sei perfetta, voce vuota. Ogni tanto mistero. Beh, sono i misteri del nostro ambiente. Sì, no? Ogni sì, tanto sì, sì, magari sì. Uno si scorda e dice, ma Sonia dove stai? In Argentina, è tornata, sì, sì, fa è la tornata cantante lì. In Argentina. Ogni tanto mi fanno morire anche volendo. Ma insomma. Io invece, intanto voglio riaverti dal punto di vista artistico, ovviamente non mi permetterei mai, cara Sonia, di farti una proposta indecente. Perché è una storia bellissima. E prima parlavamo di te come cantante, nasci come cantante praticamente, sì, come un tutto, come showgirl, come showgirl, danza, sì, recitazione, sì, sì, insomma, sì, quello che fanno adesso, insomma, pieno, sì, no? A 15 anni in Argentina, come adesso c'è questa grande preparazione trasversale delle nostre nuove leve, ma non entriamo in polemica. No, meglio di assolutamente no. No, per cui io ho trovato questo, abbiamo trovato questo momento tuo di questa canzone argentina, non la pronuncio, la pronunci tu. Sì. Entre il gentio, che significa tra la folla. Tra la folla, ma questo lo sapevo. È in spagnolo, non è... naturalmente. Certo, la, spagnolo. Tutta la canzone, non certo. Solo il titolo. E qui quanti anni avevi? Qui, guarda, non ne ho un grande ricordo, ma credo intorno ai 17-18. Ecco, ed eri lì in Argentina. Io incidevo i dischi per la Philips, sì. Per la Philips, hai capito? Vabbè, sei stata proprio la precursione. 100 facciate discografiche. Ma che bella cosa. Cioè, mi dice Mauro Meconi delle cose, 100 dischi hai fatto, sì, 100 facciate. No, 100 facciate sono 50, perché i dischetti erano a 2. Oddio, c'è neanche qualcuno doppio. Da 4. Ma perché vi ricordate che c'erano i 45 giri a 4 canzoni? Sì, e credo che Entre il Gentío faccia parte di uno di questi, sì, inciso però in Spagna. Inciso perché in il 45 giri di una volta c'è la facciata A, la facciata B, sì. E poi è nata questa doppia versione, questo mini LP all'interno del 45 sì, giri, sì, sì. E poi ci fu anche il momento del Q-disc, un 33 giri con 4 canzoni, sì. Questo è un percorso, sì, che dovrebbero scoprire i nostri però amici. Però una cosa va detta, Pino, sì. Cioè, io prego i tuoi cari ascoltatori, che non ho ancora salutato, un bacio a tutti naturalmente. Grazie, e di essere molto benevoli, perché insomma sono passati 60 anni. Bene. 60 anni, ragazzi. Vai con. Con el gentío voy, no importa por dónde va. Con el gentío voy, en algún sitio para. Yo no sé dónde va a pensa è 18, no, domenica 18. No, no, ma a parte questa, è la festa della Carrà oggi, pensa ma pure. Dai, per cui questa canzone. La festa del sesso di compleanno. È il compleanno di Raffaella, auguri, della Raffa Nazionale. Sì, infatti, abbiamo aperto con una, recitando un momento, Elena Soferici ha recitato un momento di tanti auguri della sua canzone recitata in maniera drammatica sì. E poi è partita. E questo poi assomiglia un po' sì, a quel percorso pop, dai. E insomma, era roba di anni 60. Ma è giusto, ma era carino. Infatti, ballavano tutti di là. Hai visto come ballano però i pischelli? Sono molto dolci, molto carini. Senti, io invece voglio approfittare anche per ricordare il tuo grande marito, caro amico, che non c'è più, che è Vittorio Amendola. Amendola, ovviamente, non Amendola, perché no, poi no, i cognomi. È sempre stata questa cosa. Perché Amendola, Amendola, eccetera. Amendola è bello, è un verbo. Infatti, avevamo una nostra sigaretta che era Amendola Scotti. Bello, cioè, va scusa, bene. C'è chi si chiama Piccioncino, Picchichicchi, Picchidicchi. Ecco. Voi avete costruito una cosa poeticamente bella. Lo ricordiamo anche un grandissimo direttore con cui ho avuto a che fare spesso e volentieri. Un grande uomo, affettuoso, grande in tutti i sensi. Un omone buono, a parte il Pippo della Disney. Ricordiamolo e lo vogliamo anche ascoltare come voce recitante e cantante della Bella e la Bestia Lumière, che non era neanche una cosa facile. Ce lo ascoltiamo ricordandolo con affetto, Vittorio. Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup du jour, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi. E Vittorio resterà sempre con noi, soprattutto con te. Sì, sì. È bello questo ricordo di Vittorio. Grande, ma avremo classe. Modo. Sì, un uomo veramente eccezionale. Senti, allora adesso andiamo un attimo in pausa, quella leggermente più lunga perché c'è il GR. Finalmente ho imparato a dire GR perché forse lavora in televisione. Perché come dicevi? TG o TG? Ah, TG, che certo, devo fare? Certo. Quella è purtroppo, davo la linea sempre a TG. Qui ho imparato dopo un anno e mezzo a dire finalmente GR. Allora, restate con noi, come dice il grande Vittorio Lumière, restate con noi e dopo ancora in compagnia di Sonia Scotti. A tra poco con Radio 24 e Voice Anatomy. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Marianne Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con Scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Voice Anatomy. Ed eccoci, come promesso, dopo questa più lunga pausa del GR e non solo, sempre in compagnia di Sonia Scotti. Ci siamo salutati con la voce del tuo grande marito, mio grande amico e direttore Vittorio Amandola, con Lumière, con grande eleganza, grande verità, perché poi è difficile in francese, perché normalmente sì, fare quella R così finta, sembra poi finta, no, invece certo, lui invece no, la recitata e l'ha cantata. Sì. Ma anche tu sei stata Disney in una parte bellissima, Ursula della sì, Sirenetta, dove anche tu hai recitato e cantato. Dire, e devo dire che facendo un prodotto Disney così completo, nel senso di parlato e cantato, è l'unico modo forse per passare all'eternità, certo, perché i figli dei figli dei figli dei figli ascolteranno. Infatti, anche perché poi La Sirenetta è l'ultimo film di disegno manuale, sì, e quindi è un bellissimo ricordo. Anche lì c'è Vittorio che fa il cuoco. Ah, lo vedi. Le poisson, le poisson. Ah, lui è francese, è il suo punto di riferimento, sì, sì, come sì, per sì, te lo spagnolo. Sì, sì, sì. E allora ci ascoltiamo la nostra Sonia Scotti, immortale voce di Ursula nella Sirenetta. Oh, io gioia darò, oh, sì, vorrà la pozione, tutti vogliono da me, Ursula, aiuto, io dico, son qua. Ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia gli do. Allora, il patto è questo. Ti farò una pozione che ti trasformerà in una creatura umana per 3 giorni. Sono stata chiara per 3 giorni. E ora fai bene, attenzione, è importante. Prima che il sole tramonti il 3° giorno, devi fare in modo che il nostro caro principino si innamori di te. E ciò vuol dire che deve darti un bacio. Non deve darti un bacio qualunque. Deve darti il bacio del vero amore. Ah, eccola, vai bello, perché non è facile. Normalmente c'è chi canta che è un'altra persona, chi recita sì, che è la doppiatrice, sempre, e invece sì, in questi sì, casi sia tuo che del tuo splendido marito sì, sì, siete stati in voce molto... Ho avuto questa molto... fortuna, ah, beh, però lì fu un caso veramente, il fatto che io prendessi parte a questo film, che oltretutto era in una società di doppiaggio dove io non lavoravo. Con chi era, ti ricordi, chi era il direttore? Era De Angelis. De Angelis. E, perché avevano finito il film, allora... ma non riuscivano a trovare la voce che cantasse in quella tonalità, perché le basi delle canzoni Disney, come tu sai, quelle sono... non si possono toccare, no, quindi la tonalità era praticamente quasi al confine col registro maschile e non c'era una donna che cantasse in quella tonalità, e soprattutto gli americani volevano, la Disney voleva che la stessa voce che parlava cantasse. Ah, c'era questa imposizione. C'era questa imposizione. È successo questo, che io allora ero nella società di Rossella Izzo. Uh-huh. Rossella Izzo stava parlando con un suo collaboratore. Collaboratore in quel momento, e, al telefono per altri prodotti, e questa persona disse: siamo nei guai, perché siamo nei guai? Siamo nei guai perché il film è in uscita e non troviamo la voce. E vabbè, che problema c'è? Fammi sentire la voce al telefono. Gli fa sentire la voce al telefono, dice: ma veramente, perché non sentite un attimo Sonia? Dice, certo. Sonia canta. Dice: secondo me va. E io in mezz'ora ho imparato tutte le canzoni con l'allora maestro Carapellucci. Carapellucci, che sì, non sì, c'è più, ora c'è un altrettanto bravo Brancucci. Sì, Brancucci. E fu così che nacque La Sirenetta, ma non dovevo esserci. Le cose nascono per caso, le cose più belle, certe volte nascono per degli incontri casuali, che poi la tua sì, valigia sia piena, dice la fortuna, no, no, di... no, ma no, la fortuna è che poi dentro quella valigia c'è tanta... Certo, tanta esperienza. C'è uno scompartimento in cui esatto, c'hai qualcosa da andare cose a pizzicare. Senti, cara Sonia, noi chiediamo sempre ai nostri amici, miei colleghi e doppiatori di leggere qualcosa che magari inerente, ma perché con la voce si può raccontare qualsiasi cosa. Abbiamo trovato insieme a Rachele adesso questi fantasmi in casa. Ci sono 5 modi per allontanare gli spiriti. Cosa? Io, guarda, perché poi tu ghost e Whoopi Goldberg, no, vabbè, per cui ci però, sta. Sì, molto indicato, infatti, non ho voluto leggerla prima apposta, perché... No, non bisogna. No, i veri, che i veri fa attori, male alla salute. Esatto, non bisogna sapere. No, no, no. Per cui anche lei sarà all'impronta, all'improvviso. Una musica d'atmosfera un po' magica, ce l'abbiamo, pagando anche una cifra extra, Valerio? Non so, dico sempre ma non lo faccio, però dai. Eccoli qua. Sospettate di avere dei fantasmi in casa e non sapete come liberarvene? Esistono. Allora, guarda, ti devo fermare un attimo, perché sì, il nostro amico Mauro Meconi, che riprende sempre... Si sta sentendo male? No, deve riprenderla per metterla su Facebook, perché poi i nostri amici continueranno ad amarla attraverso il nostro sito. Ricominciamo, certo. Vai! Sospettate di avere dei fantasmi in casa e non sapete come liberarvene? Esistono diversi modi per allontanare queste presenze indesiderate e riprendere una vita casalinga serena. Una prima cosa da fare, secondo gli esperti di paranormale, potrebbe essere quella di domandare gentilmente alla presenza di lasciare la casa, utilizzando frasi come «questo non è il tuo posto, è ora che tu vada avanti e prosegua per la tua strada». Ora, se mi permetti, Pino, sì, ci sarebbe un'altra versione di tutto ciò. Sospettate di avere dei fantasmi in casa e non sapete come liberarvene. Un esercizio di stile questo. Esistono diversi modi per allontanare queste presenze, mo. Oh, oddio, che consalone! Una prima cosa da fare, secondo gli esperti di paranormale, potrebbe essere quella di domandare gentilmente alla presenza di lasciarla a casa. Ma Tin, va! Questo non è il tuo posto, e or che te ne vai, che te ne vai! Queste sono tante cose. Non ascolti, signori, ma che bella cosa! Beh, questo è fai. Troppo non avendo... divertente. Guarda. Ma no, guarda, per questo dico, mi hai riportato alla luce questi sceneggiati, mi hai aperto questo link meraviglioso. Io credo che veramente, come un buon libro, la radio è l'evocativo per eccellenza. In Rai c'era la famosa Sala Como. Ah, la Sala Como, dove si registravano questi sceneggiati. Esatto, si facevano gli sceneggiati. Dobbiamo creare una sala... Sala 24. Sì, come? Sala 24. Sala 24. So, senza dare il nome a nessuno, perché almeno sono tutti vivi, perché mi fa sempre paura. No. La sala insegno non la voglio ancora. Cioè, la voglio in vita. Mi in vita, dire, per favore. Sala di doppiaggio Scotti, ecco, che sia in vita. Così, quando mi hanno dato il premio alla carriera, dico, meno male. È finito? Però sono ancora giovane. Esatto. Posso... Qualche anno fa. Sì, certo. Dico, sono ancora giovane. Perché di solito si dà quando uno grazie tante problema. No. Sì, no, queste cose bisogna farle sicuramente. Sonia, io ti chiedo soltanto la cortesia di tornare, perché con molto piacere. Sono volati 50 minuti insieme a te, abbiamo raccontato soltanto il climax della tua carriera, soltanto delle piccole, con molto piacere, perché insomma, a parte che una voce del genere me la voglio mettere qui vicino. Sono disposta anche a rispondere a domande, se sì, esatto, poi chiederemo anche l'ausilio dei nostri radioascoltatori, che sono molto attenti, soprattutto più lo di credo. Noi sanno delle cose, mi correggono su delle parole, dei sinonimi. Sì, Radio 24, devo dire la potenza della radio. Sì, cioè veramente persone attentissime. Sì. Questa radio, devo dire che ha avuto questa bellissima intuizione, è l'unica radio dove si può parlare serenamente per un po', mettere un po' di musica, ma sicuramente fare certo. compagnia. Secondo me la radio è voce, sì, la canzone, ma la voce che ti accompagna in un viaggio. Certo, perché l'anima esce dalla voce. Non ce n'è per nessuno. Allora, cara Sonia, con la promessa di riaverti la con prossima stagione, te, tuo fratello, e ricordando sempre le persone che ci hanno e ti hanno accompagnato nella tua bellissima vita. Grazie infinite dell'ascolto, più paziente di tutti i tuoi ascoltatori. Paziente, avrebbero voluto proprio tenere un'applicazione Sonia Scotti nel telefonino, cliccarci sopra e sentire la tua voce che magari accompagna. Si può fare. Anche con una bella favola notturna. E allora bene, a tra pochissimo con l'amico Gigi D'Alessio, dopo Sonia Scotti, dopo Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. È la volta del mio amico Gigi D'Alessio. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Come promesso, dopo l'avventura iniziale con Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci e Sonia Scotti, che è rimasta per presentare degnamente l'ospite alla mia sinistra, che mi ha trattato malissimo, nonostante io gli voglia bene, lui ha proferito dei verbi pronunciabili. Però io, con una bella musica di sottofondo, presenterei il nostro ospite così. Grazie, Sonia. Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta a primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due, solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

conoscenza, questa prevenzione, non si sapevano tante cose. Oggi magari è un male che se tu becchi in tempo lo puoi, soprattutto consiglio agli uomini arrivati a 50 anni a colonoscopia, sì. Alle donne la mammografia, oramai sono diventato un esperto. Parlavamo dopo... prima del suo grande marito, anche lui un bravo doppiatore, che ci ha salutato qualche anno fa proprio per questo brutto male, l'abbiamo ricordato. Io ho perso mamma, papà e un fratello 5 anni fa. Sì, quindi... tuo fratello è stato un momento veramente drammatico. Tra l'altro tu l'hai conosciuto. Sì, sì, molto. Quindi... Questo ho voluto dire in questa canzone, quindi parlare di me, ma poi andare a dire anche toccare delle cose importanti di oggi, che succedono oggi. Eh sì, la stella polare ce l'abbiamo chiunque, questo è bello, è un bellissimo... Sì, perché poi quando vedi la prima stella che luce, cioè, quella è mia madre, oppure quella è mia nonna che mi sta guardando, bravo. Lo facciamo tutti. Ai miei figli, dico, vuoi dire una cosa? Saluta nonna Romana che sta lì, esprimi un desiderio e quella stella te lo riporterà quando sarai più grande. Invece quando morirai tu sarai uno scoglio. I tuoi figli diranno, da papà... E non parlando così, ti adoro perché sei come me, perché bisogna poi prendersi sul serio l'ironia, oggi è domenica, ci salverà, ed è la festa della Carrà. È la festa della Carrà, pensati. Te cambia da giornata. Auguri a Raffaello. Va bene, con questo entusiasmo salutiamo questo primo momento insieme, ne seguiranno altri due. Con Gigi D'Alessio chiedo a Sonia di rimanere ancora un po' a questo punto. Ma con piacere. Visto che se tu vai via, lui va via con te, per cui... No, non te lo levo. Resta qui. A tra poco, voi sanatomi. Sanatomi. Bentornati signori miei, voi sanatomi, al mio fianco, alla mia destra Sonia Scotti, che continua a rimanere in mia dolce, in nostra dolce compagnia, con Gigi D'Alessio qui alla mia sinistra. Eccolo qua. Invece io sono veramente felicissimo perché di fronte a me ho Sonia Scotti. Ma guarda che, ma poi spende una parola carina. Non niente, il vuoto. Ho capito, fino a che ce le diciamo in privato, queste cose va bene, ma se tu lo stai dicendo... Facciamolo sapere. No, facciamolo ma io ho detto verrà il mio amico, ma perché devi rovinare sta cosa? Ma guarda... È incredibile. Senti, infatti che sto qua con te di domenica. Senza ragù, questo devi far capire quando ti voglio bene. Okay. E comincerai a odiarmi, questa è la seconda volta che vieni, la prima e l'ultima. Esatto, bravo. Vabbè. Io invece a questo punto vai con la musica di sottofondo. Sfido. Guarda che giornata di sole che c'è. Qui in città si soffre, che caldo che fa. Aria condizionata, nel traffico che c'è, meno sudato arriverò da te. Vai. Prepara tutto, che al mare si va, la tua pelle nera tra un po' si farà. Un ritmo cubano, la radio lo suona già, è tutto programmato se ti va. Quando è stanotte tramonta il sol, mon amour, io quiero darte mi corazón, mon amour, a piedi nudi vicino al mare, a bailar, tutta la noche, qui si restar, mon amour, si tu me quieres, te doy mi vida. Y te entrego todo mi amor, te regalo también la luna. Yo por ti la voy a buscar. La pubblicità era aspetta. Guarda che giornata di sole che c'è. Qui in città si soffre, che caldo che fa. Aria condizionata. Abbi il coraggio. Ho detto una canzone che è diventata la pubblicità della Simmental. In un attimo. Ma perché? Ma prima è esaltata. Perché la voce tua è niente associata. Ma dai, quella che tu hai morto. Perché delle cose più importanti che mi ricordo è la pubblicità della Simmental. La carne è un'altra. Un'altra carne. Invece ancora. Pure. Peggio. Così mi hanno dato pure il contratto. Vai, vai. Questa noce tramonta il sole. Che poi è sudamericana, dovevi recitarla tu questa Sonia, che lei è cresciuta in Argentina. Hablamos en español. Esatto. Por supuesto, dejémoslo solo. Esatto, solo. Senti, a proposito di questo, voi state parlando, ma tu hai cantato pure in sudamericano, in spagnolo. Ma perché il napoletano non è sudamericano? Sì, no, come... Abbiamo un sacco di... Senti un po', proprio in Sud America, Venezuela, sì. Il primo strumento a 4 anni, chi te l'ha regalato? Papà, ma in effetti non lo portò a me, lo portò a mio fratello. Portò la fisarmonica per mio fratello, perché a 4 anni, figurati, sempre potevo mettermi la fisarmonica addosso. Cioè, sarebbe stata più leggera una lavatrice. Però mio fratello muoveva il mantice, ovviamente, sì. E io ho cominciato a suonare le prime note sui tasti. E poi da lì lo startup è stato quello, insomma. E come nasce in te la voglia di fare cantautore a questo punto? Ma più che cantautore, la consapevolezza, ho cominciato a studiare, poi dopo sono entrato in conservatorio, la mia insegnante di pianoforte diceva: tu nella vita devi scegliere se vuoi fare il musicista o il musicante. Ovviamente a 10 anni non capivo la differenza tra musicista. Io voglio suonare, perché per loro tutto quello che era musica leggera era musicante, era proprio bestemmiare, certo. Che era sacro e profano, no? Io dissi: non lo so. Poi la cosa bella è che sono passati tanti anni e un giorno la mia insegnante di pianoforte mi chiamò, a Domenica Inn, ero in diretta, disse: volevo dire che quel musicista, che un musicante è diventato un grande musicista. Questa soddisfazione è stata una cosa, si prendono strada facendo, molto, no? Bella. E poi ho cominciato a scrivere le canzoni, però le facevo cantare agli altri, perché io fondamentalmente, sono una persona timida. Sì, profondamente. Non sembra. È vero, adesso Sonia, no. L'hai notato. Dopo 25 anche anni tu. Di carriera, no. Però ero una persona molto timida, quindi avevo vergogna. Il napoletano introverso. Il napoletano introverso, cioè era quello che scriveva le canzoni e le facevo cantare. E vedevo che gli altri facevano successo. E un po' mi rodeva, hai capito? Esatto. E ho detto: ma sai che c'è? Ma mi canti. E me le, insomma, mi canti e me le canto io. Sì, faccio dal tronco al mobile. Sta senza pensieri. E poi è andata. Infatti c'è una tua carriera, si può poi raccontare come se fosse una docufiction. Allora, nel 67 nasci, abbiamo detto. Nel 1992, l'esordio, viene pubblicato il tuo primo album, Lasciami Cantare. Lasciatemi cantare. Hai sbagliato. Tanto non devi sbagliare, devi fare cose precise. Con buoni risultati di vendita. Carne Montana. Ma non è così. Ma guarda se me devi far denunciare questo. Hanno spalancato le porte al tuo secondo lavoro, che era Scivolando verso l'alto. Perché subito feci successo. Subito. A Napoli, ovviamente. Ma quella Napoli è Napoli e l'Italia. Napoli è il mondo. Napoli è tutto il tu mondo. Se fai successo a Napoli, dopo puoi andare dappertutto. È vero. Giusto, Sonia? È vero. Intenditori di musica, sì. Esatto. È quello. A questo punto utilizzo questa tua napoletanità, ma napoletanità, che è una cosa molto più importante. Napoletano è una lingua, è la mia lingua madre, esatto, che perché poi bisogna specificare che in Italia, cioè, io sono bilingue. Esatto, tu sei italo-napoletano. No, napoletano-italiano, cioè, sai perché? Perché veramente il napoletano è una lingua. È una lingua, è un suono, è tutto. No, quindi noi nasciamo... È come se fosse un'altra nazione, cioè, nel senso che il napoletano, essendo una lingua, è la mia lingua madre. Certo. E poi noi, quando pensiamo, io penso sempre in napoletano, sogno in napoletano. Poi quando devo scrivere, per me è una traduzione. Certo. Quando poi devo cantare in spagnolo, penso in napoletano, traduco in italiano e parlo in spagnolo. Cioè, penso proprio che giri, che voli pintarici che faccio. Io avevo detto che cos'era Gigi D'Alessio, ho detto poco, ho detto pochissimo. Allora, a questo punto facciamo l'altro salto, perché stiamo facendo inizio, fine, esatto. Inizio. E andiamo su Malaterra, che è un altro CD bellissimo, molto che tu hai fatto bello. Regalandolo alla tua terra, ma contrastando la terra dei veleni, che pure questo è un contraddizione in termini, no? Perché Napoli, come ben sai, Napoli, la Campania, è lacrime e zucchero, esatto, no? Come è detto, tutto, sì. Come ho scritto nella canzone, perché se tu pensi la più bella, non me ne vogliate, Roma, ma una delle più belle città del mondo, che vive sotto il vulcano più pericoloso del mondo. Sì, sì, cioè, ma c'è questa vita di contraddizione. Di contraddizione continua. E quindi Napoli è lacrime e zucchero. Io ovviamente sono un emigrante. Non sono arrivato col barcone, ci fatta Napoli-Roma. Esatto, però, che è uguale. È uguale. Forse fai prima col barcone. Arrivare, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, ovviamente. No, ma è così. Ma quindi... Napoli poi è la città dove l'impossibile diventa possibile, ma il possibile diventa impossibile. Esatto. La terra delle contraddizioni, ma la terra nel senso buono del termine, perché la tiene lei. E noi ci ascoltiamo. Una canzone a me fa impazzire, che è la città di Pulicinella. Va bene. Vai. T'accompagno, vica, vica. Sulla tega sin amica, e da porta me quartiera do solo non sapere, ma sapere tutto riesce e sarà bene e finestra e capisce com'è bella la città e pulla cenella, com'è bella, com'è bella. Malaterra, ma soprattutto ho letto che sì, tu hai fatto questo concerto poi benefico, perché sì, poi è una cosa per la tua terra, sei stata sempre molto attenta e si capisce quanto certo, sei legato alla tua, la tua bellissima terra. 200.000 persone alla Reggia di Caserta. Sì, molto bello, è stata una serata molto molto bella, perché si è vista proprio la, la voglia di quel popolo di dire basta. Questa è cosa importante, perché comunque sai, devi sempre sottolinearlo nel modo più nazional popolare possibile, tridimensionale, che la musica può regalarti, no? No, ma certo, se quella folla è stata emozionante, perché c'erano bambini da, da sei anni, 200.000 c'erano tutti, tutti, ma proprio tutti. Questa è bella, questa canzone diventasse tipo USA for Africa, no? Dove tutti i più grandi cantano una canzone insieme, e questa dovrebbe essere bella, tu insieme ai tuoi colleghi, vero, non vero, solo napoletani, è vero. Che si alternano alla voce di una cosa del genere, perché la terra dei fuochi va aiutata, assolutamente, no? Sì, assolutamente, perché sì, perché non è possibile che io ho paura di una mozzarella meravigliosa, bravo, che bravo, possa invece... Ma tutto è nato perché io sono andato in un supermercato a comprare del pane e c'era scritto: qui non vendiamo mozzarella campana. Che è una cosa terribile. È stato proprio un... tipo qui non cantiamo canzoni napoletane, esatto, per radio, bravo, no? Bravo, non esatto, si può, com'è? Sì, guarda, mi sono detto, ma perché questo? Esatto. Perché? Poi vabbè, insomma. Sì, entriamo in un, in un link pesante, eccetera. Io invece leggo, poi sì, che tu sei stato, ovviamente in America ci vai sempre, come sì, vai in Sud America. Però al concerto Radio City Music Hall di New York c'era chiunque. C'era pure Valeria Marini, a parte vabbè Silvestre Stallone, Liza Minnelli, Anastasia Polanca, Christian De Sica. Cioè, e io che sono amico tuo, non è proprio Giambi, la prossima volta portiamoci, a posto di quello che ci porta le valigie, ci portiamo Pino direttamente. Pino insegna, così farà tutto lui. Vabbè, tu hai la patente che puoi guidare pure in America. Andiamo in pubblicità, no? Dobbiamo andare in pubblicità, perché sto sentendo una voce, credo che ci siamo inseriti con una diretta, e sento una voce strana, straniera, non... Scusa, no, senti, puoi guidare la macchina, Valerio? Ci deve essere un problema, i portabili, Giambi, tutti i portabili, sì, li porta lui, esatto, non, cioè, senti, risolvi questo fastidio. Mica tecnico. Hai paura dell'aereo. Tu parti, senti, con la nave, però non è che ti possiamo portare con l'aereo. Lo vedi? Continuo a sentire una voce. E cioè, c'è un problema tecnico. Andiamo, fallo pubblicità, partire la settimana prossima. Vai visto in che pubblicità, a dicembre, per favore, affatto. Valerio, grazie. Voice Anatomy. Abbiamo risolto, signori miei, il problema tecnico, dove sentiamo una voce che parlava in maniera molto particolare di una mia presenza negli Stati Uniti come valletto, ma era un errore, credo che sia stato proprio un inserimento tramite. Sì. Invece volevo leggere, caro Gigi D'Alesso, sempre a mio fianco, per gli ultimi 9 minuti insieme. Solo così? Allora fammi stare solo con Sonia, dai, che sono rimasti gli ultimi 9 minuti, ma chi te ne vai? Lasciami con Sonia. Volevo dire che nel 98 un film uscito a Napoli, che era Nare, con la regia del grande Nini Grassi, grande, caro amico, che ha polverizzato ogni incasso superando il Titanic. Ma cioè, vedi, ritornando alle contraddizioni, Napoli, ritornando alle contraddizioni, il centro del mondo, e nemmeno io ci posso credere a sta... No, a parte il fatto che io non mi reputo un attore, assolutamente, no, lo so, c'è un sacco di articoli. Ma la cosa bella è che ho fatto successo in Italia per il film, non è che ho fatto successo come cantante. È grazie a questo che poi sono arrivata alla Sony, cioè alla BMG. BMG, e decidi di raccogliere tutto in un concerto. Però è doppiato da me in quel film, la gente, esatto, non lo sa. Doppiato, sì, lì sì, eri, esatto, doppiato da me. Proprio doppiato da te. E infatti sembrava proprio fatto un grande successo. Ma tu pensi che abbiamo girato quel film? Io non, cioè, sono rimasto così scioccato, perché nemmeno Nini Grassi sapeva di cosa dovevamo parlare nel film. Ma come, non c'è una sceneggiatura? La mattina sceneggiatura. Allora come, senti, Fellini, che dobbiamo fare? Tu di numeri. Ma come di numeri? Allora io che stavo con Fabio Testi, no? Sì. E dicevo, ma come? 27, 29 e 45? Lui diceva, no, 230, 240. No, e poi vi siete ridotti. Ma come faceva Fellini? Ma tu vi rendete conto? Hai capito? Io sono rimasto scosso da questa cosa. Non mi sono più ripreso. No, no, no. Senti, cioè, ma perché... come i film si fanno così? No, non si fanno così. Faceva Fellini così. Vabbè. Senti, Sonia, visto che lui ti adora, sì, invece a me mi ha fatto fare Mon Amour, che insomma mi è messa lì da carne, insomma, lasciamo sta. Mi dai un pezzetto di questa bellissima canzone. Strano perché è di Gigi D'Alessio, però sì, è una bellissima canzone. Una strofa, scegli tu un inizio, dove vuoi arrivare, me lo dici, così la lanciamo. Sei contento così? Eh sì, certo. Hai certo ragione. Ma non come la canta, no, Gigi D'Alessio. No, la, così se la roviniamo. Non così accorata. No, alleggeriamola un facciamo po'. Un'altra cosa. Fai tu, esatto. Sonia, sei la padrona, lui vai, poi ti adora. Vai, musica. Che poi non ci crede nessuno. Che è improvvisato. No, no, è improvvisato. Però, non lo sapevo. È improvvisato. Assolutamente. Pure io all'improvviso sono arrivato qua. Esatto. Vai. Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri, come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni, fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma. Sulle porte gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti. Cambierebbe tutto quanto all'improvviso se tu fossi qui con me. Perché dentro la mia vita c'è quel vuoto che hai lasciato e che nessuno può colmare, tranne te. Tu che ne sai che sto ancora a pensarti da solo. Tu che ne sai. E se cade una stella dal cielo, la dedico a noi, che respiro i ricordi più belli in un dolce replay, ma diventa più grigio del fumo quell'arcobaleno. Non c'è sale nell'acqua di mare, non riscaldano i raggi del sole. Lontano da te, dove sarai? Avrai già raccontato la storia che parla di noi. Ce l'hai ancora nascosto il segreto più bello che hai. Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti. Cambierebbe tutto quanto all'improvviso se tu fossi qui con me. Perché dentro la mia vita c'è quel vuoto che hai lasciato e che nessuno può colmare tranne te. Tu che ne sai che sto ancora a pensarti da solo. Vai, vai. Tu che ne sai. Io lo so, lo so. E se cade una stella dal cielo, a chi la dedichi? La dedico a noi. Che respiro hanno i ricordi? I ricordi più belli. Dove? In un dolce replay. Ma come diventa? Ma è meglio quando la dice lei. Guarda, un bel brutto quando la canto io. No, no, non è vero, non è vero. Bellissimo, vai, lascialo in prima. No, comunque, guarda, se faccio un programma televisivo... Non mi chiamo. Non ti chiamo, chiamo okay. Voglio chiamare Sonia. Ma guarda, non mi porti in America. Io ho solo una persona che sono affezionato, ma non per la sua estetica, ovviamente. Per la simpatia e l'affetto che nutro nei confronti di Anna Tatangia. Anna. Anna, aiuto, ho sbagliato. Devi venire tu. No, tu io voglio Sonia. Ma come voglio Sonia? Sì, però mi dovete avvisare molto prima, no, perché mi devo restaurare. Ma che, perché no, stamattina no, nessuno me l'ha detto, ma... sono anche senza trucco. Sonia, la musica è come una donna, cioè la donna si deve vedere come quando nasce una canzone, ma così. Certo. Perché poi dopo truccata, vabbè, e apparecchiata. È tutta, non vale più. Non vale più. Invece ti voglio così. Bene. È bene. Così. E allora, guarda, a questo punto io invece non mi posso... Pino è arrabbiatissimo. Non voglio più ascoltare lui. Ho detto alla mia amica Anna, che l'ho nominata troppo poco, mi metti un pezzo che c'è anche Anna, ti prego. Ah, ecco. Esatto. Oh. un nuovo io bacio. Io ti dirò le cose dette mai. Questa la canto io con Anna, te levo proprio, guarda. Sostituiamo, si può fa sta cosa. Anna, ti prego, senti una voce che te canta vicino, giusta. Capito, no? Che egoista, che te no. No. Capito? Ma Anna, ti voglio bene. Uno che canta in arabo. In... Mai ci sei, chissà se con lo stesso sguardo vedi me negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo vicini adesso per niente, scappare Anna, via. Questa dobbiamo rifarla noi. Esatto. Poi però tocca dei diritti a Gigi D'Alessio. No, prendetevi tutto voi. Prendiamo tutto noi. Vabbè, siamo arrivati, abbiamo volato fino alla fine. Che però peccato. Gigi, non so quando, ma devi tornare. Non so qua, l'amicizia non si può interrompere. Scusa, l'amicizia fra te. Restiamo un altro po'. Ho capito, è finita ma la tu devi andare a fare convention. Finisce la trasmissione. Tu devi andare a fare la convention. Devo andare in Sardegna, ma non c'entra niente la trasmissione. Quello dura, ma guarda che forte. Passiamo la parola a tutti i convocati. Invece, Gigi, vuoi salutare qualcuno? Chi devi ringraziare per tutto questo, non per oggi? Ma io devo ringraziare il pubblico sicuramente. Quello. Che mi ha dato, devo ringraziare mio padre e mia madre che mi hanno messo al mondo, la mia bella famiglia, ma soprattutto il pubblico che mi ha dato modo di vivere un sogno. E come dico sempre, se sto sognando non svegliatemi. Esatto, io poi sono stato al tuo concerto e ho visto quanta gente. Ma fammi ringraziare Sonia Scotti, certo, cioè, per cortesia, cioè, Sonia Scotti che ha rivalutato i miei testi, portandoli da 1 a 1000. E Mon Amour che ho fatto io? Mon Amour che hai fatto tu è da 1000 è tornata a 1. Benissimo, okay. Questo è bellissimo. È bellissimo. Io non credo di sottolineare altro. Volevo salutare tutti i tecnici. Meraviglioso. Valerio, grazie, 24, Rachele. Una radio meravigliosa. Rachele, l'insegna che c'è giù, grandissima. Esatto. Che ci si arriva qui al centro. Per un attimo poi vedo insegno, invece esatto. No, l'insegna. L'insegna. Non ce l'avevi con me. Vabbè, no, no, scusa. A te niente, saluto ma assorta. Si latina. È bello, signori, dopo un'amicizia così consolidata con questa trasmissione non sarà più niente lo stesso. Anna, ti voglio bene, un affetto profondo, so che dovrai condividere con lui poi il ritorno a casa esatto. Questa domenica. Gigi, grazie davvero. Te. Grazie Sonia, grazie a voi. Ciao. Domenica prossima per l'ultima puntata. Montana. Smettila, a domenica prossima. Voi sanatovi. Ciao.